Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buon pomeriggio, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. I saluti vi arrivano anche da Mire Lucchetti, che ha scritto con me questa mottata, Roberto Scaltritti in regia. R come risorse. Risorse che cosa significa? Ad esempio petrolio, oro, ferro, coltan. Lo sapevate ad esempio che l'80% del coltan è tutto in Congo? Petrolio è quello che mette in pericolo interi paesi o intere regioni. Torneremo sempre in Congo per parlare del caso eclatante del Virunga, ma anche risorse apparentemente più povere come lo stagno. Di questo parleremo nella trasmissione di quest'oggi. Risorse l'accaparramento delle quali crea squilibri enormi, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. E quindi cercheremo attraverso questa lente di comprendere meglio l'impatto dello squilibrio fra nord e sud del mondo proprio nella caccia e nell'accaparramento delle risorse. Dicevo, risorse apparentemente povere, tra virgolette, passatemi il termine, come il legno. Ne abbiamo parlato nelle cicli passati di Nessun Luogo Lontano e torneremo a parlare anche di legno. Prima di tutto però, voi lo sapete, a noi di Nessun Luogo Lontano piace dare i numeri, ascoltateli con noi. 9,6 miliardi la quota che raggiungerà la popolazione mondiale nel 2050. 40% è la crescita della domanda di energia e legno prevista nei prossimi 20 anni. 60% è la quota di carbone consumata nel mondo negli ultimi due secoli. Si stima che tra il 2000 e il 2030 il consumo di terra della popolazione urbana aumenterà del 63% nei paesi occidentali e del 170% nei paesi in via di sviluppo. Ogni due secondi un'area forestale grande come un campo da calcio viene distrutta. Il 15% della foresta amazzonica è già perso per sempre. 80% è la concentrazione del coltan mondiale nel solo Congo. $26,000 per tonnellata è il prezzo medio dello stagno. Allora, questi sono i numeri e i paradossi delle tante risorse che il globo conserva sulle sue acque, sotto e sopra i suoi terreni. Certo, mapparle tutte è praticamente impossibile, ma è un esperimento interessante. Lo sta facendo Mani Tese e do qua il mio benvenuto a Giuseppe De Salvo, che è responsabile delle campagne di Mani Tese. Buongiorno De Salvo. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Dicevo, esperimento interessante perché intanto è una mappa anche interattiva, ve la potete guardare dal sito manitese.it, e poi appunto dicevo raccoglie alcuni casi emblematici di accaparramento delle risorse. De Salvo, partiamo da questa mappatura che state tentando di fare. Come funziona? Come avete scelto i casi e le campagne sulle quali impegnarvi? Sì, è un planisfero online che guida il navigatore alla scoperta di alcuni tra i più importanti casi di accaparramento di risorse agiti sia da investitori pubblici che privati, che sembra ormai in concorrenza impazzita, una corsa folle alimentata a queste risorse, povere o meno povere, è una corsa folle alimentata da, secondo noi, un modello di sviluppo che si ostina a non considerare i limiti che la natura impone loro, e facendo questo genera tutta una serie di impatti ambientali e sociali in quei paesi che potremmo definire ricchi di risorse ma paradossalmente poveri di reddito. E quindi navigando nella mappa interattiva, che è uno strumento dinamico aperto a essere alimentata nei prossimi mesi con ulteriori nuovi casi da parte nostra come Mani Tese, ma anche dei nostri partner italiani ed europei, ecco, dentro questo manifesto, con questa mappa si raccontano tutta una serie di storie, in particolare delle storie di quelle comunità locali che sono praticamente sempre più estromesse da qualsiasi negoziazione che riguardi risorse fondamentali per il loro sviluppo, che sono sui loro territori da millenni e su cui loro non hanno per niente voce in capitolo. Quindi raccontare queste storie è anche ridare voce a quelle comunità locali che oggi non ce l'hanno, e quando cercano di alzare la voce per dire scusate, ci siamo anche noi, spesso vengono criminalizzate o dai guardiaspalle del settore privato che lì va a intervenire, o direttamente dalle polizie degli stati in cui vivono.

era proprio nel 2007, prima della crisi finanziaria che tutti noi conosciamo, e quindi pian piano anche le reazioni entusiastiche degli stati più progrediti come Germania, più progressisti come Germania, Norvegia ed altri si sono spente, e oggi nell'agosto 2013 il presidente Correa ha dovuto rinunciare a questa iniziativa. Questo ha scatenato conflitti sociali interni al paese, quindi anche lì il conflitto è una conseguenza dell'accaparramento di risorse. Sì. Intendi dire, scusami, Giuseppe De Salvo, che c'era chi era pro e chi era contro questa proposta innovativa del presidente, quindi lì è nato il conflitto? Sì, diciamo, fino a quando il governo si è trovato costretto a rinunciare a questa proposta, tutti erano pro dentro il paese, perché questa proposta era l'orgoglio dello Stato dell'Ecuador ed era l'esempio concreto della realizzazione del famoso buen vivir che tanti anche occidentali affascinavano. Quindi questa possibilità di avere un rapporto con la natura diverso e di pensare a un sistema economico-sociale realmente alternativo a quello capitalista, che in questo momento oggettivamente è in crisi strutturale. Quando il presidente Correa è stato costretto a rinunciare a questa operazione, perché contemporaneamente doveva far emergere il paese da povertà, dare servizi essenziali, ovviamente questo ha generato una spaccatura all'interno del paese, tant'è vero che i movimenti ambientalisti, indigeni e anche altra parte civile hanno cercato di raccogliere le firme per fare un referendum, ci sono riuscite, quindi nell'aprile del 2014 hanno raccolto oltre 580.000 firme richieste, ma poi anche di come effetto di questo scontro intestino la Commissione Nazionale Elettorale ha bocciato quel tot di firme necessario ad arrivare al referendum, e quindi oggi c'è un ricorso nazionale che diventerà un ricorso alla Corte Interamericana per i diritti umani. Quindi quello che mi interessa dire è che l'ennesimo conflitto sociale, dopo tutta la devastazione che è precedente in Amazzonia, che stiamo generando noi, perché poi in Amazzonia le imprese che vanno a estrarre petrolio si chiamano Repsol, si chiamano Agip, si chiamano Petrobras, si chiamano, insomma, ha molti nomi che hanno a che fare con o paesi ricchi o paesi in via di sviluppo, dove sappiamo c'è mai una grande disparità anche di reddito e quindi... Chiarissimo. Tanta concentrazione di ricchezza. Chiarissimo. Fatto, insomma, la storia di questi appetiti, senza scivolare in facili terzomondismi, insomma, la stessa, no? Che chi mi segue ho raccontato, ad esempio, quella del Virunga Park in Congo, dove le esplorazioni, anzi petrolifere, furono abbandonate, ad esempio, dalla Total, anche dall'Eni, e poi invece la Soco, la britannica, andò avanti per un po', poi gli ambientalisti vinsero la battaglia, anche lì si fermarono. Ma insomma, ancora una volta, le risorse, la ricchezza delle risorse dimostrano, insomma, gli appetiti che scatenano e anche i disastri non solo ambientali ma anche sociali ed economici che possono causare. E grazie allora a Giuseppe De Salvo, responsabile della campagna di Manitese. Ricordo manitese.it, andate a vedere la mappa, perché questa era solo una delle storie che Manitese ha raccolto, questa dell'Ecuador. Se volete leggervi le altre, appunto, andate sul loro sito. Grazie De Salvo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e buona continuazione di trasmissione. E se c'è una risorsa principe, beh, quella è la terra. Allora, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, fate 2 più 2, unite R come risorse, A come accaparramento e poi aggiungiamo T come terra. Allora, buongiorno a Stefano Liberti, giornalista, scrittore, autore, fra le altre cose, di Land Crambin. Stefano, buongiorno, buona giornata. Buongiorno. Allora, Stefano, in questa nostra ricognizione sull'importanza delle risorse, sull'accaparramento delle risorse, ovviamente un capitolo principe, lo dicevo, lo merita quella che è la corsa alla terra, che tu hai indagato in questo volume ormai edito da qualche tempo, ma che continua a essere di stretta attualità. Un altro, tua inchiesta, l'inchiesta si chiama The Dark Side of Tomato, il lato oscuro del pomodoro. Partiamo da quest'altra storia e dalla voce di Vittoria Adongo. Tomatoes could have been big business in the country, especially for those in the Upper East region, because they have a irrigation there that produce a lot of tomatoes. Allora, Vittoria Dongo, della Peasant Farmers Association in Ghana, è un'associazione di coltivatori, è una delle tante voci raccolte da te e da un team di giornalisti, filmmaker, fotografi, eccetera. Avete messo insieme una serie di storie per dimostrare un paradosso incredibile. Ci spieghi qual è, Stefano? Sì, noi abbiamo la nostra equipe, abbiamo messo insieme un team di giornalisti e di, appunto, di videomaker, web designer, insomma, perché abbiamo fatto un web documentario, cioè un cross media, tra l'altro in tre lingue, in italiano, in francese e in inglese, che è uscito su Al Jazeera, su Radio France Internazionale e su Internazionale, e siamo partiti, diciamo, dal punto di vista giornalistico, siamo partiti da un enorme paradosso, cioè ci siamo accorti, lavorando io e la mia collega Matilde Villan nelle Puglie, che i pomodori, come è noto ormai in Italia, raccolti nelle Puglie da immigranti, per lo più africani, e in condizioni paraschiavistiche, diciamo, comunque in condizioni di ipersfruttamento, e alla fine alcuni di questi pomodori raccolti venivano trasformati in concentrati di pomodoro e esportati in Africa, e in particolare nell'Africa occidentale, cioè negli stessi paesi di origine di questi migranti che raccoglievano il pomodoro in Italia. Siamo quindi andati in Ghana, che è il paese maggior consumatore di pomodoro concentrato del West Africa, e ci siamo accorti come queste importazioni provenienti dall'Italia e anche dalla Cina avevano di fatto distrutto la produzione locale, perché il Ghana era, ancora in parte lo è, ma ormai pochissimo, produttore esso stesso di pomodoro, nel senso che l'arrivo di pomodoro concentrato in grandissime quantità e soprattutto a prezzi bassissimi, perché il pomodoro italiano, comunque il pomodoro europeo in generale, gode dei sussidi all'agricoltura mediante la politica agricola comune dell'Unione Europea, faceva un'operazione di dumping talmente forte che i consumatori preferiscono comprare il pomodoro concentrato estero che il prodotto fresco che viene invece dal paese. E quindi di fatto la gran parte dei produttori di pomodoro, e questa è una storia che va avanti ormai da 6-7 anni, forse anche qualcosa in più, la gran parte dei produttori di pomodoro locali non producono più pomodoro, e quindi in parte hanno cambiato colture oppure hanno abbandonato le proprie terre, alcuni casi limiti sono stati dei suicidi nel 2007-2008. E quindi si vede come in qualche modo noi abbiamo ricostruito tutta la filiera per dimostrare questo circolo vizioso che a noi sembrava assurdo e anche in parte drammatico, cioè che poi alla fine le persone che sono state allontanate dalle terre a causa di questa importazione massiccia e di questa concorrenza sleale, alla fine alcune di queste persone si sono trovate a dover partire, hanno attraversato il deserto, il mare, sono poi arrivate in Europa e si ritrovano sfruttate nei campi di pomodoro del sud Italia, cioè nelle Puglie, a raccogliere quel pomodoro che poi di nuovo verrà trasformato e verrà esportato nel loro paese. Ecco Stefano, fra l'altro riguardando e rimmergendomi nel vostro web documentario, una delle interviste che mi ha colpito era proprio di un coltivatore che avete trovato nel sud Italia, e lui denunciava in qualche modo, dalle sue parole traspare immediatamente, che più lui lavora i pomodori in Italia più toglie, uccide le culture di pomodoro nel suo paese. E credo che questo sia uno degli aspetti più surreali, no, della vicenda che voi avete tratteggiato. Ma questa infatti è la cosa che poi ci ha spinto a costruire tutta questa storia, è proprio il fatto che è una storia di movimento di merci, di uomini che vanno in direzioni opposte, e soprattutto è una storia che noi volevamo mettere in luce le contraddizioni. Quindi sì, quando abbiamo incontrato i ghanesi in Sud Italia, loro ovviamente hanno un certo tipo di rivendicazioni, che sono quelle: noi vogliamo ottenere migliori salari, vogliamo avere permessi di soggiorno, eccetera. Sì. Ma al contempo non sono consapevoli di quello delle conseguenze del loro lavoro. Quindi noi poi gliel'abbiamo raccontata e quello ha creato una consapevolezza e anche in qualche modo una coscienza di questa cosa, e quindi una maggiore rivendicazione. E lo stesso avviene nella regione produttrice di pomodoro nel nord del Ghana, nel senso che effettivamente loro vedono semplicemente che i pomodori non si vendono più e dicono sì, beh, perché il governo non ci aiuta abbastanza, e poi abbiamo fatto notare al mercato effettivamente il vostro pomodoro lo portate, sì, ma in effetti comprano tutti la tassa di pomodoro che viene dall'Italia e dalla Cina. E quindi sono reso conto che questa concorrenza era in qualche modo la causa principale della loro miseria. Grazie Stefano Liberti per questa storia, questa tua testimonianza. Buona giornata, buon lavoro. Ricordo, in lingua italiana, il webdoc è sul sito di Internazionale, il lato oscuro del pomodoro. Grazie Stefano Liberti, buona giornata, buon lavoro. Grazie, ciao. E in questo viaggio, in nessun luogo lontano, a caccia nel senso giornalistico, di risorse, si scoprono anche questi paradossi, si scopre come a volte c'è sia l'accaparamento delle terre, a volte dei frutti della terra, con quel paradosso che Stefano Liberti vi ha appena illustrato. Adesso una piccola pausa, poi ancora altre storie, qui a Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. E prosegue, gentili ascoltatrici e ascoltatori, il nostro viaggio a caccia di risorse. Adesso è venuto il momento di parlare di una risorsa che apparentemente non ha il valore che merita, perché noi tutti abbiamo in casa tavolini, sedie, mobili fatti di legno, sì. Ebbene, però quel legno lì a volte è un legno che, per produrre il quale insomma vi sono stati attori in concorrenza, in lotta, si è messo in pericolo il pianeta, sono messi in pericolo interi ecosistemi e intere regioni. Ci parla di tutto questo Chiara Campione, che è responsabile della campagna foreste di Greenpeace. Chiara, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Chiara, fra l'altro noi ci siamo sentiti l'edizione dello scorso anno di Nessun Luogo Lontano e tu stavi a Manaus, nel cuore, esatto, dell'Amazzonia. E stavi conducendo un'inchiesta, stavate conducendo uno studio che ormai è pronto. Partiamo dalle storie amazzoniche che voi state indagando. Sì, infatti in questi due anni di indagine sull'industria del legname nell'Amazzonia brasiliana siamo riusciti a dimostrare come il legno che proviene dal taglio illegale che distrugge la foresta viene venduto in Europa, purtroppo anche a casa nostra in Italia, ma anche Israele e Stati Uniti, e con l'aiuto di queste indagini siamo riusciti a raccontare in qualche modo cinque storie, cinque casi studio attraverso i quali sveliamo i diversi modi con cui si riesce a frodare il sistema di controllo e far sembrare legale del legname che in realtà non lo è affatto. E forse una delle storie più impressionanti, anche perché è legata a una storia umana molto recente e molto toccante, è il caso studio che abbiamo prodotto su questa concessione che si chiama PDS, o Progetto di Sviluppo Sostenibile Virola Jatobà, un progetto che è nato nel 2002 da un precedente progetto di insediamento agricolo sponsorizzato dal governo, e sta nell'area vicino alla cittadina di Yanapu, a soli 25 chilometri dalla famosa autostrada transamazzonica che tante critiche, sì, continua a sollevare, ed è stato il primo progetto di questo tipo nello stato brasiliano del Pará, che è stato il frutto di anni di lavoro di questa attivista ambientalista che era Suor Dorothy Stang, un nuovo modello di insediamento che aveva come obiettivo quello di assicurare ai coloni una fonte di reddito supplementare basato proprio sullo sfruttamento del legname, però senza distruggere la foresta, quindi con il taglio ciclico. E purtroppo lì i conflitti per il territorio tra i coloni e le imprese del legname portarono all'uccisione di Suor Dorothy nel 2005, che fu un'esecuzione in piena regola, che venne uccisa proprio all'interno di questa concessione. Attraverso queste analisi, queste indagini che abbiamo fatto sul campo, che sono state anche molto complicate da seguire, noi fondamentalmente abbiamo dimostrato che prevalentemente ci sono cinque modi che vengono utilizzati per far diventare legale il legname illegale. Uno di questi, per esempio, forse gli ascoltatori non sanno che la foresta può essere, anche le aree forestali nel cuore dell'Amazzonia possono essere in qualche modo sfruttate, il legno può essere tagliato, e anche noi di Greenpeace pensiamo che il legno, se ben gestito, è un'ottima risorsa, specialmente per le popolazioni locali, sì, e proprio perché è una risorsa che in qualche modo si rigenera. Sì, tu dici il problema è quando c'è un taglio indiscriminato. Cioè senza il problema regole, è quando c'è un taglio indiscriminato, senza regole, e in Brasile purtroppo c'è un altissimo livello di corruzione e chiaramente l'interesse da parte appunto di chi commercia il legno a poterne estrarre molto più di quello che è permesso. Tra l'altro questa è una cosa che forse abbiamo ricordato anche l'anno scorso, ma che vale la pena di ripetere: il taglio illegale del legno è sempre il motore della conversione forestale, perché quando io taglio una foresta prevalentemente illegalmente, quindi superando queste quote che mi sono concesse, con il reddito che mi viene dalla vendita del legno ammortizzo le spese della conversione più estesa di queste aree forestali, per esempio in coltivazioni di soia o in allevamento bovino. Quindi fondamentalmente ci sono vari modi per frodare il sistema, sì. Uno dei quali è per esempio autorizzare il taglio di un'area dove il legno è stato già tagliato, e quindi per la negligenza o con la collusione degli agenti del SEMA, che è questo organismo che insomma sono delle segreterie statali del Ministero dell'Ambiente brasiliano, si approva un piano forestale fraudolento per un'area dove il taglio è stato già effettuato. Chiarissimo. Fra l'altro, questa storia, Chiara, ti interrompo perché mi ricordo una storia che raccontammo proprio qua, Nessun Luogo Lontano, di taglio illegale in Mozambico, dove appunto a volte la poca attenzione, o se non nei casi più gravi la collusione del governo, appunto portava ai disastri che tu stessa stai tratteggiando dall'altra parte del mondo. Però Chiara, ecco, ti interrompo perché di questa cosa, chi sono i vostri nemici? Voi contro chi combattete? Perché è vero, da un lato ci vorrebbe più trasparenza, no, nella burocrazia, eccetera, però alla fine chi è che taglia il legno illegalmente? Ma intanto diciamo, da un lato c'è un sistema ufficiale di controllo della produzione di legname in Amazzonia che è troppo debole e troppo facilmente aggirabile. Dall'altro in Amazzonia, così come in tantissimi altri paesi tropicali, devo dire la verità, esiste una vera e propria mafia del legno, che è molto difficile tra l'altro da intercettare e da individuare. Quindi fondamentalmente quello che noi chiediamo è che ci siano delle regole più chiare e che naturalmente ci siano anche delle pene più severe per chi manipola questi documenti, per chi froda i permessi per il commercio del legname, consentendo di far apparire legale il legno tagliato illegalmente, che poi insomma, come nel caso di questa piccola storia che abbiamo raccontato, sì, porta anche ad asprissimi conflitti sociali. Diciamo che se ci fosse un sistema normativo migliore in Brasile, questo succederebbe sempre di meno. Devo dire la verità, quando noi lavoriamo specialmente nello stato del Pará e pubblichiamo le nostre analisi, noi molto spesso lavoriamo insieme al procuratore distrettuale del Pará, specialmente negli ultimi anni l'abbiamo fatto molto, e proprio a seguito delle nostre denunce, queste segherie che erano diciamo i punti dove arrivava questo legno illegale sono adesso state messe sotto indagine e gli è stato chiesto, diciamo, per ricominciare ad operare, di produrre dei documenti che garantiscono davvero la legalità della materia prima che utilizzano. D'altro canto però abbiamo anche dei nemici un po' più nascosti, e questi ce li abbiamo anche a casa nostra. Se pensiamo che da più di un anno, quindi dal marzo del 2013, tutti i paesi europei avrebbero dovuto rendere applicare una normativa che si chiama EUTR, cioè EU Timber Regulation, un regolamento per cui abbiamo lottato per anni e per cui abbiamo fatto anni di lobby politica a livello europeo, che impedisce l'ingresso del legno illegale, non soltanto dall'Amazzonia naturalmente, ma anche da altri paesi, sui nostri mercati. Ebbene, per esempio in Italia, ad un anno, quando noi abbiamo lanciato i nostri scandali, ad un anno dall'emanazione del provvedimento del regolamento europeo, l'Italia non aveva ancora applicato questo decreto. Quindi, facendo un esempio molto pratico, se io anche domani avessi una segnalazione di un carico di legno illegale, come spesso avviene, insomma questo è un po' il nostro lavoro, sì, in un porto italiano, non sarei in grado di poter denunciare, o meglio potrei denunciare l'ingresso di questo legno illegale ma non essendoci un sistema sanzionatorio ancora in vigore nel nostro paese, come dicevano i latini, sine pena nullum crimen. Certo. Devo dire che un primo risultato l'abbiamo già ottenuto, perché quando abbiamo lanciato i nostri rapporti, i nostri casi studio, poco più di un mese fa, abbiamo pensato di organizzare qui in Italia un tweet bombing al ministro delle politiche agricole e forestali, chiedendogli appunto di emanare immediatamente il decreto, e ci siamo riusciti. Quindi in effetti questa potenza, è una buona notizia. Potenza dell'uccellino azzurro, insomma, potenza tweet dell'uccellino azzurro, ma anche chiaramente delle migliaia di, sì, sostenitori, certo, e di, insomma, di follower su Greenpeace, e di italiani che hanno a cuore, diciamo, il sì, sì, no, fra l'altro segno chiara che voglio dire, si inizia a percepire, no, anche il valore di certe risorse. Il senso anche un po' della puntata di Nessun Luogo di quest'oggi è proprio questo, cioè restituire il valore ad alcune risorse che sono sottovalutate, perché quando si parla di risorse nel globo si pensa immediatamente all'oro, ai diamanti, al petrolio. Il petrolio e il gas sono quello per cui si scatenano le grandi guerre, quando in realtà poi vi sono conflitti silenziosi e striscianti come quello che ci stai raccontando tu. Siamo in chiusura, devo dare una piccola pausa. Grazie allora a Chiara Campione, responsabile campagna foreste di Greenpeace. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. E se il legno è una risorsa, è un materiale che noi tutti conosciamo molto bene perché lo maneggiamo, perché nelle nostre case, la prossima storia ci farà scoprire un'altra risorsa, un altro materiale. Beh, anche quello lo conosciamo bene, lo maneggiamo tutti i giorni, a volte pigiamo i tastini sul cellulare, sullo smartphone, insomma fa parte della vita quotidiana. Ce la racconterà Matteo Fagotto, a cui do il mio benvenuto e buongiorno. Buongiorno a tutti. Matteo Fagotto, giornalista freelance, è andato in Indonesia per indagare la filiera produttiva, come si trova, come si cerca, come si recupera lo stagno, ma subito dopo una piccola pausa. Nessun luogo è lontano. Eh sì, perché a volte dietro oggetti di banale, comune uso quotidiano vi sono intere industrie illegali che mettono a repentaglio la vita di popolazioni e mettono a repentaglio lo stato, l'ambiente che ci circonda. E questo è un po' il senso della storia che è andato a scovare Matteo Fagotto, è andato in Indonesia. Con lui la fotografa Matilde Gattoni, il pezzo è stato poi ripreso in Italia da Internazionale. E fondamentalmente è un viaggio alla scoperta, per un viaggio per radiografare questa gigantesca industria legale dello stagno. Prima di capire meglio come si è svolta questa inchiesta, ascoltiamo i numeri di questa industria. Banca è una delle due isole che formano la provincia di Bangka Belitung, a largo della costa sudorientale di Sumatra, in Indonesia. Con 1 milione di abitanti, l'isola fornisce circa il 30% dello stagno di tutto il pianeta. Lo stagno è un metallo tenero, malleabile, resistente alla corrosione e utilizzato in numerosi processi industriali per componenti di automobili, lattine, vassoi e soprattutto per le saldature di circuiti stampati, componenti di smartphone, computer portatili e tablet. Secondo la International Data Corporation, nel 2013 le forniture di smartphone hanno sfondato il tetto del 1 miliardo di unità e quelle di tablet superano i 184 milioni, con rispettivamente il 40% e il 53,4% di crescita annua. Negli ultimi 10 anni il prezzo dello stagno è schizzato alle stelle, passando da 5 a più di 23 dollari al chilo. Con oltre 40 fonderie, Bangka produce il 90% dello stagno indonesiano, venduto al 95% all'estero, in Cina, Europa e nel resto dell'Asia. Il rapporto tra l'isola e questo metallo risale al 1600. Nel 1814 i colonizzatori olandesi cominciarono a importare lavoratori cinesi per prelevarlo, ma sono le estrazioni indiscriminate e caotiche degli ultimi 13 anni ad aver portato gli effetti più devastanti sulla popolazione e sull'ecosistema di Bangka. Ecco, uno dei lati più intriganti in realtà di questa storia, Matteo Fagotto, è che tu la inizi a bordo di un peschereccio e quindi apparentemente stai seguendo dei pescatori, quando in realtà sono pescatori sì, ma non di pesci. Sì, esatto, abbiamo iniziato a seguirli su delle piccole barchette che li portano al largo su alcune piattaforme di legno che saranno a 100-200 metri dalla costa, dove viene piazzato un motore a pompa che è collegato a delle sorte di aspirapolvere, dei tubi di plastica che finiscono sul fondo del mare e che vengono usati proprio per succhiare lo stagno, quindi la sabbia e lo stagno dal fondale marino. La cosa più intrigante è che questi ragazzi estraggono lo stagno senza alcuna forma di sicurezza, ovviamente, quindi si tuffano senza alcuna maschera, senza bombole di ossigeno né niente. Hanno semplicemente collegato in bocca un tubo di plastica che, grazie allo stesso motore, aspira l'aria esterna e permette loro di respirare. L'estrazione dello stagno è estremamente pericolosa a Banca, soprattutto perché diciamo che l'estrazione della sabbia dal fondale marino crea delle sorte di tunnel, delle buche che sono molto smottabili. E quindi i crolli sono all'ordine del giorno. Secondo un'associazione ambientalista locale c'è almeno un minatore morto ogni settimana a Banca. Questo, insomma, per dare la dimensione, cioè, quando diciamo, no, la caccia alle risorse, gli impatti che ha, a volte ha impatti anche devastanti su chi vi lavora. Io cito a titolo di parallelo, visto che parliamo di smartphone e tablet, ad esempio l'industria del coltan in Congo, dove anche lì i crolli sono all'ordine del giorno, e dove c'è un fenomeno che, e mi sembra è lo stesso che avete rinvenuto tu e Matilde Gattoni, quando parlate di minatori o pescatori, in realtà quando parlate di estrattori, diciamo così, improvvisati, nel senso gente che faceva altre professioni però che si tuffa, è il caso di dirlo, no, in questo nuovo business, che è un po' quello che accade anche in Congo, perché alla fine, pur pericolosissimo, è un lavoro che attira manodopera perché si guadagna più della media del paese in cui si vive. Assolutamente, secondo le statistiche delle autorità locali un minatore di stagno guadagna circa il doppio che un bracciante agricolo a Banca. Quindi praticamente nel business dello stagno ci si sono buttati tutti, da donne a bambini a ex pescatori. Ci sono dal 30 al 40% della popolazione locale che è attiva nell'estrazione dello stagno, e un businessman locale ci diceva che la febbre dello stagno è talmente alta che c'è gente che distrugge la propria casa, scava sotto la propria casa per cercare lo stagno, perché lo stagno si estrae anche all'interno dell'isola e poi la ricostruisce. Ecco, e qua hai anticipato in qualche modo la seconda domanda, che era appunto, ci hai raccontato di queste strane miniere sott'acqua, ma invece c'è anche un'estrazione sulla terraferma. Sì, esattamente, il principio è sostanzialmente lo stesso, nel senso che vengono scavati degli enormi buchi e vengono poi irrorati con dell'acqua, e la sabbia, diciamo, che se ne ricava viene poi portata su delle linee di lavaggio e da lì viene estratto lo stagno, perché è più pesante della sabbia. Il problema dell'estrazione sulla terraferma è che sta devastando tutte le foreste locali. Banca una volta era una splendida isola tropicale, mentre adesso appena si atterra si vede dall'alto, si vede benissimo che tutto il panorama è pieno di queste cicatrici, di questi enormi crateri che sembrano dei crateri lunari e che invece sono semplicemente delle miniere dismesse e che nessuno bonifica. Quanto, diciamo, il governo locale è responsabile? Quanto c'è di leggerezza nella sua politica? Quanto eventualmente anzi di collusione vera e propria? Beh, allora, il governo locale si difende dicendo che non hanno abbastanza risorse per controllare tutte le miniere che vengono aperte, che una volta che chiudono una miniera illegale se ne apre un'altra vicino, perché la richiesta di stagno a livello mondiale è enorme. Il problema però è che, insomma, secondo la nostra inchiesta ci sono anche poliziotti che approfittano del commercio illegale dello stagno e che quindi ricevono mazzette dai minatori per, diciamo, non disturbarli. C'è un governo nazionale che adesso ha iniziato a fare qualcosa, perché ha creato una sorta di borsa nazionale, tentando quindi di chiedendo, diciamo, che tutto lo stagno venga convogliato a Giacarta, nella capitale, attraverso una borsa, e questo in teoria dovrebbe permettere agli esportatori legali di poter trafficare, di poter commercializzare lo stagno all'estero. Sì. Questi minatori informali, diciamo, questi minatori dell'ultima ora, questo afflusso, no, in questo business, sta cambiando anche la società, sta cambiando le famiglie. Tu parlavi di bambini, di donne, e quindi è chiaro che si sottrae tempo, ad esempio, alla famiglia, si sottrae tempo alla scuola. Come sta riplasmando la società in quest'isola? Beh, la nostra impressione è che la società sia diventata molto unidimensionale. Alla fine lo stagno è praticamente l'unica attività economica redditizia dell'isola, e quindi tutti tentano di entrare in questo commercio. Ovviamente l'educazione viene trascurata, molte volte le donne e gli uomini non coltivano più e non fanno più i pescatori, perché semplicemente non è redditizio. Il problema anche è che ovviamente questa estrazione di stagno sta avendo conseguenze pesanti anche a livello ambientale, quindi i pescatori, per esempio, a causa dell'inquinamento dell'acqua vicino alle coste causato dalla stazione dello stagno, sono costretti ad andare miglia e miglia al largo per riuscire a trovare pesce, cosa che prima non succedeva. Fra l'altro voi nell'inchiesta citate una campagna di un gruppo ambientalista, Friends of the Earth, che chiedeva trasparenza ai produttori di telefonia proprio per capire se usassero o meno questo stagno non trasparente, non troppo pulito. E poi leggevo insomma che alla fine alcune aziende molto grosse, BlackBerry, Motorola, Samsung, eccetera, eccetera, hanno ammesso di usare questo stagno. Sì, hanno ammesso di usare questo stagno. Il fatto è che è estremamente difficile capire se quello usato da loro sia stagno legale o sia stagno illegale, perché ci sono anche degli esportatori illegali che provengono da banca. Queste compagnie si sono impegnate a creare un gruppo di lavoro che adesso sta studiando gli effetti delle stazioni dello stagno a banca e che ha promesso sostanzialmente di migliorare la trasparenza nella filiera dello stagno, nella filiera mondiale dello stagno. Questa è una delle storie che Matteo Fagotto normalmente raccoglie, giornalista freelance, stavolta era in coppia con la fotografa Matilde Gattoni. Prossima tappa, prossimo reportage in vista, Matteo, sei in ripartenza? Sì, siamo in partenza tra qualche giorno per andare in Indonesia a fare una storia a Banda Aceh e poi realizzeremo anche un workshop a Malaga, in Spagna, a ottobre, in cui tenteremo di fondere fotografia e giornalismo all'interno di un workshop piuttosto innovativo in cui si insegnerà ai giovani fotografi e giornalisti a collaborare insieme, perché riteniamo che questa sia la forza di giornalisti e fotografi in questo momento così difficile per il mondo dei media. Grazie allora Matteo Fagotto, buon viaggio, in bocca al lupo, buon lavoro, alla prossima. Grazie mille, arrivederci. Si chiude qui, gentili ascoltatrici e ascoltatori, la puntata dedicata alle risorse, la nostra ricognizione, R come ricognizione, R come risorse. Però prima devo ringraziare ovviamente Mira Lucchetti, che ha confezionato con me questa puntata, Roby Scaltriti, che le ha dato musica e ritmo, voi per essere stati all'ascolto. Cercateci su Facebook, Nessun Luogo Lontano Radio 24, su Twitter sono Giampaz. Intanto una buona giornata e un saluto a tutti.